grazie innanzitutto per essere presenti. Ringraziamo Cox 18, Calusca City Light e l'archivio Primo Moroni per ospitare la presentazione di questo libro. Questo è un testo che raccoglie, potremmo dire, i frutti di anni, decenni di lavoro di ricerca di Cesare Bermani. È un testo quindi di grande importanza, anche perché coglie un incontro, un momento di sintesi tra percorsi individuali, biografie individuali, come potete leggere, intense, travagliate, drammatiche, attraverso il fuoco della Prima Guerra Mondiale, delle lotte del primo dopoguerra, e incontrano, si esprimono in un momento storico estremamente particolare, cioè il Biennio Rosso, gli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale, fino, grosso modo, all'avvento del fascismo. Quindi un momento storico, per certi versi addirittura fondativo di certi assetti politici e sociali dell'Italia, per certi versi fino ai giorni nostri. È un testo, quindi, che ha una ricchezza di materiali notevole e si offre a una molteplicità di letture, di angoli di visuale, di piani di lettura, di motivi di interesse, veramente per la ricerca storica, per la riflessione politica, persino aspetti non irrilevanti dal punto di vista antropologico, etnografico. Quello che cercherò di fare oggi, brevemente, è indicare alcuni aspetti, alcuni elementi di interesse che, come redazione di Prospettiva Marxista, di cui faccio parte, abbiamo ritenuto particolarmente importanti e ci hanno indotto a collaborare alla pubblicazione di questo libro. Io partirei col primo aspetto. Ovviamente non sono elementi esaustivi, ognuno troverà altro nella lettura di questo materiale. Ma uno dei primi elementi che ci ha colpito, che ci è sembrato importante, è che dalla descrizione di queste testimonianze emerge un panorama politico, uno scenario politico dell'Italia di allora. Premetto, stiamo parlando di un'area specifica, quindi di quell'area, possiamo dire, storicamente collocata a cavallo tra Piemonte e Lombardia. La provincia di Novara, la provincia di Vercelli, la Lomellina. Tenete anche presente che allora, prima della metà degli anni 20, la provincia di Novara era enorme, perché comprendeva le attuali province di Vercelli, Verbano Cusio-Ossola e Biella, quindi era una realtà anche economicamente molto importante. Quindi non pretendo di generalizzare queste valutazioni sul piano nazionale, però in quest'area alcuni dati emergono con forza. Sono confermati da molteplici testimonianze. Il primo, il quadro politico del Biennio Rosso vede una vicinanza, una collaborazione, talvolta che si arriva quasi alla simbiosi per certi versi, tra il mondo anarchico locale e quella componente prima socialista e poi comunista che darà vita al Partito Comunista d'Italia nel 21. Ripeto, parlare talvolta di collaborazione è persino riduttivo. Gli stessi testimoni, anche quelli che dopo finiranno la loro vita politica nel PC, nel dopoguerra, eccetera, eccetera, ammetteranno, alcuni non senza imbarazzi, che all'epoca erano addirittura difficilmente distinguibili. Leggevano gli stessi materiali, gli stessi opuscoli, si formavano sulle stesse letture, ma soprattutto questa sinergia diventa palese nel momento dello scontro col fascismo emergente, col primo squadrismo. Cito un solo testimone, se non voglio farla lunga su tutti i punti, sarò molto sintetico, perché è un testimone assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Francesco Leone. Francesco Leone adesso è una figura sostanzialmente dimenticata quasi nella memoria collettiva del vercellese, ma è stato di fatto una figura simbolo del PC vercellese. Combattente in Spagna, partigiano, parlamentare e senatore, era proprio il simbolo del PC togliattiano a Vercelli e in provincia. Addirittura il circolo collegato alla Federazione Comunista Vercellese fu intitolato a Francesco Leone. Leone era tutto fuorché un militante sospettabile di aperturismi eretici a sinistra, assolutamente. E lui ricorda che nello scontro col fascismo l'alleanza con un gruppo anarchico che lui menziona, che né io né Cesare siamo riusciti a trovare altri riscontri se non Leone stesso, lui lo chiama il gruppo Galleani di Vercelli. Ovviamente il nome è quello di Luigi Galleani, esponente anarchico importante, nato tra parentesi anche a Vercelli. Lui, ad esempio invece il gruppo La Luce di Novara, che anche quello collaborava con il nucleo di giovani fondatori del Partito Comunista d'Italia a Novara, perché ricordo il Partito Comunista d'Italia a Novara, a Vercelli, ma questo è un dato abbastanza generalizzabile, nasce come partito di giovani sostanzialmente. Talvolta è la Federazione Giovanile Socialista che si scinde dal resto del partito. A Novara c'era il gruppo La Luce, anarchico, però di questo abbiamo trovato dei riscontri, ci sono anche viene anche menzionato da Umanità Nova. Del gruppo Galleani, finora, almeno noi, non abbiamo trovato altri riscontri. Leone dice che nello scontro con i fascisti, la collaborazione col gruppo Galleani arriva al punto tale, dice Leone, che questi anarchici, a mia insaputa, dice, senza che io lo sapessi, mi facevano da guardia del corpo. Cioè Leone era uno dei bersagli principali dello squadrismo, perché era di fatto l'organizzatore a capo del movimento comunista locale, e tornando a casa di notte gli anarchici, senza che lui lo sapesse, di Vercelli organizzavano praticamente la sua difesa quando attraversava certe zone della città. È un dato su cui riflettere. Per contro, e anche questo emerge in maniera unanime da tutte le testimonianze che affrontano questo tema, i rapporti col Partito Socialista, con quelli che sono rimasti nel Partito Socialista, sono tesissimi, sono conflittuali, al punto che tra comunisti e socialisti non di rado si arriva allo scontro fisico. Ci si contende gli spazi politici fisicamente, e c'è una, addirittura anni e anni dopo, quando Cesare registra queste testimonianze, tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi sono passati decenni, ancora ci sono tracce di questa tensione. Cioè quando i comunisti parlano dell'atteggiamento del PSI di fronte al fascismo, l'atteggiamento spesso di disprezzo. E fa da contraltare invece l'atteggiamento dei socialisti, che parlano dei comunisti con grande diffidenza, con grande distacco. Ora, perché è interessante secondo me questo aspetto? Ma non tanto per stabilire delle affinità elettive valide sempre, che non esistono, neanche per tracciare una sorta di vademecum politico attuale, non è quello. Perché all'origine di queste convergenze, di queste aspre divergenze, c'era una cultura proletaria diffusa, una cultura di classe, una comunità che per certi versi anticipa addirittura il partito come dimensione. È fatta di quartieri, è fatta di spazi condivisi, di circoli, è fatta di canzoni, è fatta di esperienze reali, è fatta anche di miti, che non nascono col Biennio Rosso necessariamente, nascono in fasi precedenti, ma col Biennio Rosso conoscono una evidente radicalizzazione. Ora, chi era parte di questa cultura, di questa comunità proletaria, di fatto cementata intorno a un atteggiamento sovversivo nei confronti dell'ordine costituito, ovviamente vive questa radicalizzazione in quegli anni e specularmente vive un allontanamento, una distanza che diventa anche scontro con le componenti socialiste rimaste su un piano riformista e gradualista. Un altro aspetto che mi sembra molto importante, è quello, qua chiamo in causa direttamente Cesare e gli studiosi come lui, il tema della memoria. La memoria, Cesare Bermani insegna, non è un dato statico, non è qualcosa di fermo, di morto. La memoria è viva, la memoria si muove, la memoria cambia. Ora, questi militanti che ormai anziani raccontano il Biennio Rosso e gli scontri col fascismo, prima l'occupazione delle fabbriche, poi gli scontri col fascismo, rievocano questi fatti a fine anni 60 e inizio anni 70. Quindi in un clima sociale specifico, in un contesto che influisce sulla loro memoria. E questo ha delle conseguenze molto interessanti a una lettura attuale. Ne cito solo due velocemente. Uno, quando questi militanti ricostruiscono l'azione del partito sul territorio, i dirigenti, i loro punti di riferimento, i capi, e allora e non fanno ricostruzioni, cioè riportano i fatti, i dati, emerge una gerarchia anche di dirigenti che non è quella che poi nel secondo dopoguerra diventerà ufficiale. Un lettore attento ci ha fatto, sono molto interessanti questi feedback, ci ha fatto notare una cosa, secondo me, molto intelligente, come nelle testimonianze di questi militanti emerga delle figure molto presenti nell'area di cui stiamo discutendo. Ad esempio mi ha stupito molto Girolamo Li Causi. Girolamo Li Causi è molto presente, è un punto di riferimento, ad esempio nelle lotte delle Mondariso. Un'altra figura che è citato frequentemente, un punto di riferimento, un dirigente riconosciuto, è Umberto Terracini, ad esempio, che è molto più presente di altri dirigenti che, per un certo versi, per motivi oggettivi, magari non erano presenti sul territorio come questi, ma che successivamente divennero il mito, il lume tutelare, cioè anche in questa fase, in questa fase, in questa fase. Ma soprattutto la memoria diventa un problema, perché si misura con un aspetto fondamentale, con un nodo, che è le origini del partito. La memoria di questi militanti negli anni 60 e 70 deve fare i conti con un rimosso. Il partito a Novara e a Vercelli, il Partito Comunista d'Italia, nasce non a maggioranza di sinistra e bordighiana, è riduttivo, nasce bordighiano, e uso il termine bordighiano perché è l'aggettivo che usano loro per raccontare il loro passato. Cioè non è un partito a maggioranza, è un partito con queste caratteristiche. Le rare figure, ad esempio Giarda, che si richiamano ad esempio a Tasca, alla destra, sono delle mosche bianche, sono delle eccezioni. Questo non vuol dire che fossero tutti consapevolmente appartenenti alla sinistra del partito. C'erano vari livelli di consapevolezza e di adesione, ma sostanzialmente la nascita vede questo partito su quelle posizioni. Ora, è un'origine, è una matrice, una nascita che poi diventa imbarazzante, difficile. È la nascita sotto il segno di qualcosa che poi va rimosso, che poi viene colpito da un'autentica damnatio memoriae, le origini reali del partito che la Vulgata vuole invece fondato da Togliatti e da Gramsci, che semplicemente è sostanzialmente un falso storico. Come questi militanti vivono questa origine difficile? Cercano di rielaborarla, cercano di gestire questa memoria, di renderla meno dolorosa possibile, di trovare delle soluzioni per gestirla, per ridimensionarla. E sostanzialmente le soluzioni, i meccanismi sono due. C'è chi utilizza la spiegazione generazionale: eravamo giovani, facili al settarismo, all'estremismo, la maturità umana e politica ci ha guariti, quindi era un fattore legato alla nostra gioventù, ai nostri ardori giovanili, ai nostri entusiasmi. L'altro meccanismo di giustificazione è questo, è l'importanza dell'organizzazione, e questo lo trovo molto interessante, cioè sostanzialmente ci ha salvato il lavoro organizzativo. Quindi non ci siamo interessati tanto di diatribe teoriche che ci portavano fuori strada, dovevamo sviluppare il partito, farlo crescere, radicarlo, renderlo più grande, più forte. Alla fine la scelta che si è imposta, e tenete presente ancora una volta che parlano negli anni 60 e 70 del Novecento, la scelta vincente è stata quella lì. Quindi si è imposta per via naturale, per via di lavoro. Chi è che alla fine ha fatto diventare il partito un partito di massa con un ruolo centrale nel gioco democratico italiano? L'opzione che poi alla fine loro sostengono è stata quella giusta, è stata quella che naturalmente si è imposta. C'è un problema però, che i primi dirigenti e alcune figure esemplari del comunismo novarese avevano una storia che strideva con questa ricostruzione. E ogni qualvolta questi militanti devono affrontarli, l'imbarazzo, la difficoltà è enorme. Cito due nomi, Carletto Leonardi e Giuseppe Rimola. Carletto Leonardi è il segretario della Federazione Comunista Novarese, figura da tutti ricordata come una figura di militante esemplare, e viene espulso nel 26 per bordighismo e viene riaccettato nel partito solo nel 43. e morirà tra parentesi nel 44 a Mauthausen, in campo di concentramento. Interessante come Cesare con grande precisione ricorda la rievocazione che poi venne fatta da parte del PC di Carletto Leonardi. È una rievocazione molto manipolata, diventa una sorta di eroe tricolore della resistenza, lasciando in ombra tutta la fase originaria della formazione del partito, in cui Leonardi ebbe un ruolo determinante. La figura di Rimola è ancora più imbarazzante. Rimola è una figura esemplare, figlio della classe operaia novarese in senso reale, del rione San Martino, di famiglia operaia, lui stesso operaio. È una figura ricordata in maniera commovente da tutti i militanti. Uno lo ricorda mentre faceva le riunioni coi giovani, e i giovani come tali facevano ogni tanto un po' di baccano, un po' di battute, un po' di scherzi. Lui pestava il pugno sul tavolo e diceva: qua non si fanno queste cose, qua si lavora, né. Tenete presente che, questo ce la dice lunga su come cambia anche la società, Rimola, quando rimprovera i giovani che fanno casino, ha poco più di 20 anni. Cioè, è uno dei... cioè, gli altri ne hanno 16-17. Cioè, questa è la riunione clandestina che viene fatta nella campagna novarese. Ebbene, Rimola ha una vita molto travagliata, alla fine emigra in Unione Sovietica. È una bella figura di operaio anche teorico, che si forma anche teoricamente. In Unione Sovietica emerge la sua malattia gravissima, la SLA, e quindi diventa sempre più difficile per lui camminare e muoversi, e nel 1938 verrà arrestato dalla polizia politica sovietica, verrà duramente percosso e fucilato. Per tantissimo tempo la sorte vera di Giuseppe Rimola fu tenuta nascosta agli stessi familiari, che facevano pressione sui dirigenti del PC per sapere che fine avesse fatto il loro congiunto in Unione Sovietica. Merito di Bermani, merito importante veramente, quello di avere studiato e riportato alla luce la figura di Rimola anche nella sua fine. Ovvio, quindi, è evidente che rievocare queste figure non possono essere eliminate in una ricostruzione delle origini del Partito Comunista Novara, diventava aprire ancora una volta una ferita non rimarginata che continuava a fare male. Un altro aspetto che trovo interessante, perché denota l'importanza di questo momento storico. Momento storico, questo può sembrare contraddittorio, ma poi eventualmente nel dibattito ne parleremo, credo che sia spiegabile. Momento che né Cesare né io, insieme ad altri ovviamente, non abbiamo il copyright, non riteniamo un momento che abbia posto effettivamente la possibilità di un'offensiva rivoluzionaria. Ma non di meno è stato un momento importantissimo nel definire gli equilibri in Italia, nel definire le identità politiche in Italia. E come tutti i momenti importanti di forte tensione sociale, si assiste a un fenomeno. Uso un termine molto montaldiano, che Montaldi usa nei militanti politici di base, un testo per me sempre di riferimento in questo tipo di ricerche e di riflessioni. Montaldi dice la periferia che diventa centro. Cioè, in queste fasi così importanti, politicamente così vive, è come se quello che in altri momenti è la periferia, è la marginalità e la provincia, venga risucchiata, venga portata al centro delle dinamiche, smette di essere una realtà marginale. Ed è così che succede. Questi militanti, questi operai di provincia, questi contadini della bassa Vercellese o dell'alto Novarese, discutono di grandi temi internazionali, parlano di Trotsky, si interrogano su Trotsky, uno addirittura parla in dialetto, e in dialetto racconta che si procurava i giornali in francese per poter seguire in presa diretta, senza il filtro della stampa fascista, i fatti internazionali. Ci sono braccianti che organizzano in metà anni 20, in pieno regime fascista, organizzano una sottoscrizione per lo sciopero dei minatori inglesi. Cioè, sono tutt'altro che una concezione marginale, localistica del loro impegno politico. Ed è, ripeto, un fenomeno che ricorre in questi momenti come questo. Qualche anno fa feci un piccolo lavoro di studio, nulla di particolarmente importante, sulle annate del 19-20 del giornale socialista vercellese La Sesia poi aderì al fascismo. La Risaia. Ebbene, io rimasi molto colpito perché un giornale, un bisettimanale, se non vado errato, di Vercelli usciva con le prime pagine con argomenti come l'assassinio di Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg. Usciva con un articolo in prima pagina in cui si criticava la politica del presidente Wilson, del presidente statunitense Wilson. Addirittura lanciava a poco tempo dopo la fine della guerra con l'Austria, lanciava una sottoscrizione per i bambini denutriti di Vienna. Cioè, oggi che vediamo i giornali a tiratura nazionale, che sono di un localismo, di un provincialismo, di una grettezza come chiusura incredibile, vedere un giornale socialista di Vercelli che si misurava in prima pagina con questi temi è qualcosa che ci dà l'idea di questa tensione politica e sociale e il suo effetto anche vivificante, vitale da un certo punto di vista. E poi torniamo a Montaldi, e Montaldi stesso racconta come la provincia di Cremona avesse la riunione di cellula in mezzo ai paracarri, come anche a Cremona ci fossero le mobilitazioni clandestine per il caso Sacco e Vanzetti. Cioè è una capacità, ripeto, della periferia di diventare centro, di farsi centro. Ma ritengo che forse uno degli aspetti che più ci hanno colpito, non necessariamente più importanti, ripeto, torno al concetto che ho espresso all'inizio, cioè si presta a molteplici chiavi di lettura, ma una chiave di lettura che noi abbiamo trovato particolarmente potente, che emerge con particolare forza da queste testimonianze, è quella che si sta formando in questa fase storica, si sta formando un nuovo tipo di militante, una nuova tipologia di militante. Cerco di spiegarmi. Il socialismo ha già una storia lunga durante il Biennio Rosso alle spalle, il socialismo, l'anarchismo. In genere però le figure che lasciano traccia di sé sui giornali, nella pubblicistica, a livello di iniziative, cioè quelle che segnano la loro epoca, sono qualcosa di simile, lo dico senza la benché minima sfumatura di ironia, assolutamente, una fase forse anche necessaria, ricordano molto gli apostoli del socialismo. E qua i nomi potrebbero essere tantissimi anche nella zona che abbiamo affrontato noi. In genere sono di provenienza borghese, in vario modo, sono medici come è il caso di Fabrizio Maffi, che inizia la sua vita politica, poi destinata a tutto un percorso molto importante e complesso, ma inizia la sua vita politica come medico condotto a Bianzè, cioè nella campagna risicola vercellese, e diventa il medico dei poveri. Sono avvocati, Modesto Cugnolio, altro socialista vercellese che lega il suo nome alla battaglia per le 8 ore. Sono artigiani, negozianti, cioè in genere persone che riescono ad avere un reddito autonomo con cui sostenere poi la propria attività di proselitismo oppure organizzativa, come il caso ad esempio di una figura molto importante del novarese, del socialismo degli origini novarese, Romolo II Funes, grande organizzatore di leghe contadine, di rivendicazioni sindacali. E la sua figura è, per certi versi è strana, perché da un lato una grande attività pratica sul territorio, rivendicativa, a cui associa una forte, virulenta vocazione massimalista politica, che però non riesce mai a trovare una fusione con l'attività pratica. È come se fosse un grande organizzatore pratico a cui associa una tensione politica che non diventa però conseguente alla sua azione pratica. Perché al centro di tutto sostanzialmente c'è un ruolo molto debole del partito. E faccio un esempio che secondo me è lampante, un esempio molto citato nella storiografia, negli altri studi. Nel 1904 un sociologo tedesco naturalizzato italiano, all'epoca molto noto e citato, oggi molto di meno, Roberto Michels, fa una ricerca sul campo. Era un merito di Roberto Michels aver anche iniziato questo tipo di ricerche. Di matrice socialista, poi in tarda età aderirà al fascismo. Ma nel 1904 Michels fa uno studio sulla Lega dei contadini di Bianzè, ancora una volta questo paese del Vercellese. Piccola parentesi, Chi oggi ha presente questa zona così oggi, è sconcertante il parallelo con quelle descrizioni di allora. Il mutamento sociale, demografico è qualcosa, cioè sembra di parlare di un'altra epoca, di un altro mondo, di un altro universo. Bianzè era al centro invece allora di un combattivo movimento bracciantile contadino. Michels fa uno studio e vede che la Lega Contadina di Bianzè ha 204 membri. Oggi mi sembra impossibile che a Bianzè ci fosse una Lega Contadina di 204 membri. Tutti socialisti, tutti si dichiarano socialisti, non solo. L'adesione alla Lega è riservata solo a chi professa l'appartenenza socialista. E Michels aggiunge, sapete quanti erano però iscritti al partito? Zero. Cioè 204 socialisti dichiarati, ingresso solo per i socialisti, zero iscritti al partito. Lì c'era anche un aspetto che la dice lunga anche sulle condizioni economiche e sociali di questo proletariato agricolo. Pesava, dice Michels, anche il costo dell'iscrizione al partito, che vedeva visto come un aspetto che scoraggiava l'adesione formale. Ma dall'idea di quanto poco passasse il partito come dimensione nell'essere politico di questi proletari. Nel 1920 invece prende forma un nuovo tipo di militante, spesso di origine operaia e proletaria, che è un uomo di partito a tutti gli effetti. La sua attività non è saltuaria, è assolutamente continuativa. Rimola, che ricordavo prima, Cesare lo riporta, Rimola ha tutte, è un operaio e ha tutte le sere occupate con l'attività politica. Il ciclo stile, riporta Bermani, a casa di Rimola non è mai fermo, è sempre in funzione. Rimola è un operaio politicizzato, organizzato, di partito. Non è più il buon popolo socialista che si relaziona all'apostolo senza passare attraverso la dimensione di partito, è diventato un'altra figura, un'altra tipologia. Un'altra figura interessantissima che ha rilasciato a Cesare la sua testimonianza è Silvio Bertona, biografia anche questa molto travagliata. Silvio Bertona è un bracciante agricolo del Novarese. Silvio Bertona farà parte degli organizzatori di un sistema di diffusione di volantie e di manifestini capillare nelle campagne novaresi. Si suddividono in squadre, si ripartiscono il territorio e riescono a distribuire numeri anche molto importanti. Lui parla addirittura di un manifestino stampato in oltre 100.000 copie. E diventa qualcosa di effettivamente di professionale a livello di capacità, di impegno, di tecnica. Bertona è quello che organizza la diffusione della stampa comunista nell'illegalità, cosa che io non sapevo, ho scoperto lavorando a questo testo, mi sembra una cosa stranissima. Quando non potevano disporre dell'unità, diffondevano nelle cascine novaresi Il Lavoratore di Trieste. Che è un giornale molto importante nella storia del movimento comunista italiano, non immaginavo che raggiungesse la diffusione anche le zone agricole del Novarese. Ma non sono solo organizzatori, non sono tecnici dell'organizzazione punto e basta. Questo nuovo militante, almeno in questa fase iniziale, prima della lunga notte stalinista, questo militante è un militante che si forma anche teoricamente, come prima non avveniva. Bertona racconta che quando lavorava cercava di ritagliarsi tutti i momenti possibili per leggere, per studiare. Bertona, come tanti altri, passerà attraverso l'università del carcere. Bertona in carcere non leggiucchia, non è che si studia il Capitale direttamente. Bertona si confronta criticamente col grande pensiero economico borghese, l'economia classica, Smith, Ricardo, con i contemporanei quasi, Pareto, Luigi Einaudi, si confronta da militante politico con Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, addirittura farà delle sedute di studio sulla letteratura dell'Ottocento, Zola, Hugo, Tolstoi, cioè non è più il socialista genericamente definito che segue una figura carismatica, come nella zona di Cremona ricorda Montaldi, poteva essere Bissolati. È un'altra cosa, è un militante per certi versi nuovo. Ricordo che Rimola, quando viene arrestato nel 1938 in Unione Sovietica, stava traducendo in italiano l'estremismo, malattia infantile del comunismo di Lenin, cioè, ed era totalmente di formazione di origine operaia. Ora, come spiegare la nascita di questa nuova tipologia di militante? Non è questa la sede, perché richiederebbe troppo tempo e sicuramente andrebbe oltre le mie capacità, le mie conoscenze. Posso suggerire due fattori che possono avere favorito l'emergere di questa tipologia di militante. Il primo è la Grande Guerra. Io in questo faccio sempre riferimento al lavoro di Antonio Gibelli, L'Officina della Guerra, che perlomeno in lingua italiana è uno dei testi più importanti su questo tema. La Prima Guerra Mondiale è una guerra che accelera in maniera drammatica lo sviluppo capitalistico in Italia, che adegua la società italiana ai ritmi, all'esistenza, alle esigenze di una società industrializzata. È un grande omologatore la Prima Guerra Mondiale, drammatico, sanguinoso, ma è un fattore che accelera veramente il passaggio alla modernità capitalistica della società italiana e che porta le masse ad essere coinvolte in questa dinamica. Quindi è difficile non vedere la nascita di questo nuovo tipo di militante disgiunta dall'effetto drammatico di accelerazione e di modernizzazione sanguinaria e feroce della Prima Guerra Mondiale. Il secondo fattore, io ritengo, sia la percezione della rivoluzione russa. E non parlo del mito, che pure c'era ed era diffuso, ma la percezione di una rivoluzione come qualcosa di reale. Soprattutto di una rivoluzione che aveva fatto uscire un paese dalla guerra, dal tritacarne della guerra imperialistica. Cioè la rivoluzione cessa di essere un luogo dello spirito, cessa di essere un traguardo indefinito, una sorta di paradiso a cui prima o poi si arriverà ad attendere in maniera messianica, diventa qualcosa di concreto, di possibile, di storicamente definibile. Qualcosa per cui si può agire, si può lavorare politicamente, ci si può preparare, diventa qualcosa che estremizzando può essere messa al limite anche all'ordine del giorno. E questo dà un'energia, dà una forza, sprigiona una capacità di militanza che ovviamente prima era difficilmente pensabile su questa scala. Ecco, io ritengo che, e mi avvio alle conclusioni per lasciare la parola a Cesare, io ritengo che questa tipologia del militante che nasce in questa fase storica, sia stata poi, come dire, assorbita in una ricostruzione ideologica nella seconda metà del Novecento. Cioè il militante dei grandi partiti di massa, il militante sul territorio, il militante delle sezioni, il militante dei cosiddetti corpi intermedi, in questa raffigurazione della seconda metà del Novecento è diventato una sorta di punto di arrivo della storia. Cioè le democrazie mature sono mature perché sviluppano questa tipologia di militante, perché sviluppano i grandi partiti di massa, perché sviluppano una partecipazione diffusa. Questo a lungo è stata un dogma. Cioè questo è il punto di arrivo della democrazia borghese, cioè la grande partecipazione popolare attraverso un percorso di educazione politica attraverso la militanza nei partiti. Ora, ormai sono passati decenni dalla fine della Prima Repubblica cosiddetta in Italia e penso che questa visione si è rivelata totalmente illusoria. Oggi il concetto stesso di militanza, di partito di militanti, e lo dico per esperienza personale, soprattutto per le giovani generazioni è qualcosa spesso di totalmente ignoto, da ricostruire completamente. Oggi i partiti sono diventati qualcosa di completamente differente, anche il rapporto di massa col partito è cambiato profondamente. Quindi non c'è quel punto di arrivo della democrazia, del grande partito, della militanza diffusa. È la fine di una storia novecentesca, quei militanti non hanno più niente da dire a noi, quell'esperienza è diventata muta rispetto alla nostra. Io non credo, noi non crediamo. Il capitalismo purtroppo è storia dei nostri giorni, sta mostrando di tutti gli orrori, i conflitti, i disastri di cui è capace. e tutti gli orrori, disastri e conflitti che ha ancora in grembo. Ora, di fronte a questa, a questi scenari, secondo noi tornare a interrogarsi su quel tipo di militanza, sulla necessità di quel tipo di militanza in un'ottica di un mutamento radicale, rivoluzionario, è ancora necessario. Ovviamente in maniera critica, sapendo cogliere quello di contraddittorio, di irrisolto quell'esperienza di militanza hanno mostrato, ma anche quegli apporti che possono essere ancora utili e necessari nella continuazione, nella continuità di un'opzione rivoluzionaria. Ecco, io penso che anche da questo punto di vista emerga in maniera nitida la ricchezza, la straordinaria fecondità, la vitale complessità di queste testimonianze che il lavoro prezioso, inestimabile di Cesare Bermani ha permesso di salvare dall'oblio e ha consentito che venissero trasmesse fino a noi. Grazie. Dunque, io ho intitolato il mio intervento "L'ampliamento delle fonti è stato l'origine di un nuovo modo di fare storia", volendo ricordare come i primi storici che hanno fatto uso di fonti orali non erano quei cretini che vengono presentati oggi. Io, quando leggo questi ragazzetti, che adesso forse non sono più ragazzetti, che parlano di Bosio e di me come degli incapaci di fare ricerca, devo dire la verità, mi incazzo. E quindi ho collaborato a questo volume anche per ricordare come stanno le cose. Dal 1962 ho condotto delle ricerche sul campo di canti sociali nel Novarese Vercellese. Le ricerche sono state condotte all'interno dell'attività del Nuovo Canzoniere Italiano con la finalità di apportare materiali ai preventivati 4 volumi di canti sociali italiani, impresa collettiva coordinata da Roberto Leidi, che prevedeva la pubblicazione di oltre 1 migliaio di canti e che voleva essere il punto d'avvio di un'inchiesta programmata su un ampio arco di tempo e condotta da numerosi ricercatori in molte province italiane. Dei 4 volumi ne è uscito uno solo, nel 63, ma quelle ricerche continuarono a lungo e sarebbero state la base della grande attività di riproposta e divulgazione tramite dischi e spettacoli di quegli anni, e avrebbero posto su basi scientifiche lo studio della cultura del mondo popolare. Quelle ricerche furono l'occasione per entrare in contatto con numerosi militanti di partiti di sinistra, io lavoravo a Novara, della provincia di Novara, però non solo, anche nelle province vicine. E io andavo da questi militanti, mi recavo a registrare nelle loro abitazioni, nei circoli operai, nelle osterie, nelle sezioni di partito, alle feste dell'Unità e dell'Avanti, ossia nei luoghi da loro frequentati. Durante questi incontri mi accorsi ben presto che questi militanti raccontavano volentieri la loro storia e che la loro storia del movimento operaio, i loro racconti, era qualcosa di diverso da quanto apprendevo dai libri. Mi convinsi che questa loro narrazione orale per la storia, come le ho sempre chiamate, potevano rappresentare un imprescindibile arricchimento alle storie del movimento operaio, soprattutto se si voleva far emergere le culture dei militanti, dirigenti o di base, che di quella storia erano stati tra i principali protagonisti. Queste ricerche mi fecero prendere coscienza del fatto che i libri di storia, a parte quelli, una parte di quelli memorialistici che si trovavano in giro, sembravano non avere come protagonisti uomini in carne e ossa. Anzi, gli uomini reali sembravano dissolti come in un bagno di acido solforico. Mi colpiva anche come i militanti conosciuti nella sezione del Partito Comunista, cui allora appartenevo, sembrassero profondamente diversi dagli stessi militanti quando li contattavo per registrarne le storie di vita e i racconti di lotta, il loro passato altrove, non in sezione. Mi sembrava insomma che la vita di sezione, piuttosto che farmi conoscere la classe operaia, fosse un filtro che mi impediva quella conoscenza. Peraltro, credo di essere stato uno dei pochi a registrare e poi riflettere sulle riunioni della mia sezione, così come avrei potuto come avrei poi fatto con quelle del Circolo 68 Rosa Luxemburg, nel quale avrei militato a Novara quando il Partito Comunista cominciò a sparare, diciamo sparare verbalmente, sul movimento studentesco. Credo ora che quei documenti orali, così come le manifestazioni di piazza che ho fissato su nastro, siano molto importanti per la comprensione degli anni 60 e anche di quelli 70. Avevo intanto conosciuto Gianni Bosio, direttore delle edizioni Avanti, uno dei maggiori storici del movimento operaio, che era con Roberto Leidi il principale protagonista della ricerca sui canti sociali. La sua rivista Movimento Operaio era stato un tentativo di porre su basi solide, attraverso ricerche minuziose, quella storia, ma era stato affossato perché non in linea con il PC. Le edizioni Avanti, dove nel frattempo avevo cominciato a lavorare, erano la continuazione di quella storia, come emerge con chiarezza dal catalogo delle sue pubblicazioni. Tuttavia Bosio era proteso oltre e sosteneva che bisognava trovare nuovi strumenti per approfondire quella storia, che bisognava guardare en avant. Così non gli sfuggì che le ricerche condotte con il registratore alla mano avrebbero potuto aprire dei nuovi importanti spazi alla storiografia contemporanea. Scrisse l'elogio del magnetofono, che sarebbe diventato il punto di riferimento per una schiera di ricercatori non accademici, i cui punti fondamentali mi paiono poter essere riassunti brevemente. Il registratore è uno strumento di molti diversi confronti, pieno di nuove possibilità, anche nell'ambito delle tradizionali discipline culturali, accumula in maniera netta enorme quantità di materiale e le fissa in modo permanente, così come appaiono nel momento della fissazione. L'avvio degli studi sulla cultura del mondo popolare proletario segna col magnetofono una datazione nuova. Il magnetofono documenta la presente costante della cultura popolare della classe operaia, ma anche delle forme di consapevolezza. E potrei andare avanti a parlare a lungo, ma mi sembra non giusto in questa sede fare il riassunto dell'elogio del magnetofono. Ricordo solo che con riferimento al fatto che durante il congresso della sezione del PC Carlo Manzini di Novara, di cui ero membro, il 5 gennaio 1966 il funzionario invitato dalla federazione aveva cercato in ogni modo di impedire che il congresso venisse registrato. Boggio notava allora che il movimento operaio, quando esprime dirigenti preoccupati di esorcizzare il magnetofono, dovrà farsi adulto e avere la forza di esorcizzare i dirigenti. Per quel che mi riguarda, tutto quanto poi scritto di storia contemporanea ha tenuto ampiamente conto dell'allargamento prospettato che le narrazioni orali hanno portato al fare storia. Ricordo un momento, perché ormai sono cose totalmente, credo, dimenticate, i lavori sugli anni posteriori alla Grande Guerra nel novarese e vercellese, l'avvento del fascismo a Novara, la storia dei partigiani garibaldini della Valsesia, sui lavoratori volontari in Germania durante il Terzo Reich, su Antonio Gramsci e su Emilio Colombo Filopanti, e poi anche sulla vita dei circoli operai nel novarese. Della grande massa di registrazioni conservate nell'archivio Bermania a Orto San Giulio è parso a Marcello Ingrao e a me che potesse essere di qualche interesse selezionare e mettere a disposizione dei giovani studiosi le narrazioni dei militanti comunisti, socialisti, anarchici, repubblicani e squadristi. Ti sei dimenticato di parlare di Ettore Albini, che è molto interessante perché è forse, insomma, l'unico squadrista che parla tranquillamente di come venivano distrutte le case del popolo e di come si attaccavano e come venivano attaccate le costruzioni, diciamo, operaie, no? E insomma, da queste testimonianze vengono fuori dei ritratti e racconti che mi sembra diano un quadro vivace del biennio rosso e sul successivo affermarsi del fascismo prima della marcia su Roma, e credo possa avere qualche utilità in riproporli, anche perché, come giustamente dicevi tu, la distanza, sai, tra i militanti di allora e quelli di oggi è siderale proprio, non c'è punto d'incontro. Una rivisitazione non inutile, credo, anche per la riflessione sulla debacle subita dalla sinistra italiana a partire dalla fine degli anni 70 in poi. Confesso di avere anche voluto, con questa raccolta di testimonianze, come dicevo inizialmente, difendere il lavoro fatto dai primi storici che utilizzarono narrazioni orali nei loro scritti. Difesa appunto da storici recenti che giocano a fare il migliore della classe e a considerare quelli venuti prima di loro come pieni di difetti. Mi sembra difficile non ammettere che quella prima ondata di storiografia, con uso di narrazioni orali e fonti orali formalizzate, anzitutto i carti sociali, abbia determinato un arricchimento imprescindibile delle fonti nel fare storia contemporanea. Questo credo proprio che i tomatis di passaggio non possono levarcelo. È stato questo arricchimento a permettere di fare storia contemporanea degna di questo nome e di mettere a disposizione non solo una nuova fonte, ma di permettere di entrare in contatto con una storia che i restrittivi regolamenti sulla consultazione delle fonti scritte, conservate negli archivi, rendevano pressoché inaccessibile allora. Questo ha permesso, tra l'altro, di andare oltre quella storiografia crociana che si limitava allo studio delle classi dirigenti e che era ben presente anche negli studi sul movimento operaio e contadini. Vorrei ricordare l'opera migliore, credo, di tale orientamento, che è La storia del Partito Comunista Italiano di Paolo Spreanu. Invece una vera storiografia sul mondo popolare proletario del basso, che cioè tenesse conto anche della base dei movimenti e non solo dei loro dirigenti, nasce proprio con l'estensione delle fonti alle narrazioni orali. E direi che da allora le storie ufficiali dei partiti e dei sindacati hanno sempre potuto essere oggetto di contestazione. Allora, alle origini di questa svolta, parlo inizio degli anni 60, credo che a dedicarsi a questo tipo di storiografia eravamo veramente in pochi. Se dovessi citare dei nomi, ricorderei Danilo Montaldi, Gianni Bosio e, senza la minima senza la minima modestia, anche il sottoscritto. I due, per quel che concerne Bosio, i primi due sono morti giovani, non avevano ancora 50 anni. Per quel che concerne Bosio, toccò poi a Clara e a me pubblicare i suoi lavori più importanti di storia con narrazione orale. L'intellettuale rovesciato, un libro fondamentale per un'intera generazione di militanti, storici e sociologi, è in realtà un'antologia di scritti di Bosio che, sulla base di un iniziale numero di scritti che Bosio aveva raccolto, sono stati poi ampliati e curati da Clara e da me. Il trattore d'acqua negra sul Chiese, rimasto incompiuto, è stato pubblicato con un mio lungo saggio esplicativo di quel lavoro. A lungo gli storici che utilizzarono memorie orali si rifecero in parte al nostro lavoro da allora, giungendo poi a una propria autonoma maturità e coltivando propri specifici interessi. Se dovessi ricordare persone che hanno seguito, insomma, questo tipo di orientamento, primo orientamento, ricorderei Maria Luisa Betri, Antonio Rinaldi, Bruno Cartosio e Filippo Colombara. E poi tanti altri, ma questi qui prima degli altri. Altro merito di questa storiografia è quello di aver permesso di smitizzare molte vicende storiche e, per quel che concerne il Biennio Rosso, di averlo derubricato da movimento rivoluzionario, che non fu, e ritengo che in tutta la storia d'Italia non ci sia mai stato un momento del genere, a momento di grandi conquiste quali l'imponibile di manodopera e il controllo del collocamento sulla manodopera da parte dei contadini, e di aver ridimensionato anche l'occupazione delle fabbriche a momento difensivo e di educazione al fatto di poter lavorare e produrre in assenza di capi e padroni. Questo era stato l'obiettivo di Gramsci dell'Ordine Nuovo, ma quello era e niente di più, non certamente un attacco rivoluzionario. Ancora una considerazione: perché Ingrao e io abbiamo scelto di scegliere i militanti nella zona tra Milano e Torino? Ecco, perché studi sui militanti di base delle due grandi città ci sono, ce ne sono anche moltissime raccolti da me, ma scarseggiano quelli delle zone periferiche come Novara, Vercelli e Mortara. Tra queste narrazioni orali fatte da uomini in carne ed osso, abbiamo scelto di pubblicare tra i testi che abbiamo scelto di pubblicare mi paiono assai significativi e utili per il Biennio Rosso quello di Carlo Lombardi, che secondo me è il più completo, che dà l'idea di che cosa sia stato in campagna il Biennio Rosso e, per l'avvento del fascismo, quello che già citavo, di Ernesto Albini, questo strano personaggio che fu sempre contro. Allora era squadrista, distruggeva le case del popolo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si presentò alla sezione del Partito Comunista di Novara, perché la sezione del Partito Comunista aveva pubblicato la fotografia della distruzione della Casa del Popolo di Trecate e aveva scritto 1.000 lire a chi si riconosce. E lui si presentò in sezione, alla federazione e chiese le 1.000 lire. Qui era un tipo così. E poi è anche quello che il giorno dopo, quando ci fu la marcia su Roma, lui lasciò il partito fascista perché Mussolini aveva tradito la tendenzialità repubblicana, come diceva lui, e lui non si riconosceva più in quel partito. Infatti fu subito mandato al confino con altri. La galleria dei personaggi considerati mi pare di una in tutte le varie sfumature e diversità anche tra i vari socialisti, mi pare di un'idea abbastanza precisa dei militanti politici dell'epoca che abbiamo considerato, appunto descritti nelle loro diversità. Qui mi fermo. Ringrazio. C'è il dibattito. Se qualcuno vuole integrare, fare domande, osservazioni aggiuntive, quant'altro, penso che abbiamo un po' di tempo per affrontarlo. Temo che qui non ci siano stalinisti e quindi è difficile litigare. Mentre abbiamo litigato da matti a Novara. Ma da matti, insomma. Sì, abbastanza. Abbastanza. Ma i matti erano loro. Vabbè, quello sì. Forse Schierone ha qualcosa da dire. Ti immagini se non so cosa pensi. Ciao. Il libro lo prenderò e lo leggerò anche molto volentieri, perché mi sembra molto interessante, almeno dalla discussione che è stata fatta. No, nella introduzione si è accennato un po' a Novara e a Vercelli. A Novara c'era il gruppo La Luce, mi pare ricordare, ma c'era anche un giornale che pubblicavano con lo stesso titolo. La Luce. Adesso, mentre a Vercelli c'era quel vecchio anarchico che era stato in America, era stato espulso, e a Vercelli sono usciti anche dei numeri di quel giornale lì. Conoscete, no? Sono usciti almeno 6 o 7 numeri con lo stesso titolo che aveva in America. Adesso mi sfugge il nome del titolo, comunque c'è questo. Poi mi ha colpito parecchio, ma mica una novità, il fatto che il primo movimento del comunismo e gli anarchici erano piuttosto legati, è vero. Se noi leggiamo l'Unità, le prime edizioni dell'Unità, tra le persone, i compagni che danno l'obolo, troverai tanti anarchici, no? Che sostengono l'Unità. E la cosa curiosa è anche che in alcuni campi alcuni partiti comunisti avevano la bandiera nera degli anarchici. c'è questa simbiosi per quale motivo? Secondo il mio punto di vista c'è una simbiosi perché è un periodo particolarmente teso, va bene? La strage del Diana, per esempio, ha, come dire, dato un colpo all'anarchismo in senso negativo, va bene? E molti si sono un po' ritirati o a vita privata o a continuare la lotta in altri partiti come il Partito Comunista, e altri hanno continuato a fare la loro lotta anarchica. Questo è importante. L'organizzazione, come parlavano negli anni 60 alcuni intervistati, il Partito Comunista era ultra organizzativo, ma gli anarchici erano organizzativisti nel modo più assoluto, anche se la vulgata oggi è che gli anarchici sono individualisti, anti-organizzatori, sì, c'erano anche quelli, ma Enrico Malatesta, il pensatore più importante, era organizzativista, e tanti giornali lo dicono anche chiaramente. Sì, tutto qua, a Novara era di casa, sì. Tutto qua. Da Novara viene, tra l'altro, per fare un salto in avanti, nel 43-44, un socialista libertario, Concordia, che è tra i fondatori, no, delle Bruzzi Malatesta, anzi ancora prima, combattendo nel Varesotto, no, contro le prime, con le prime non organizzazioni, gruppi spontanei antifascisti, la battaglia di San Martino, mi pare che si chiamasse all'epoca, no? Tutto qua, leggeremo il libro, grazie. Grazie. Due o tre cose veloci. La prima è, chiederei a Cesare di dire anche oggi quale fu uno degli spunti che ti indussero a fare ricerca con le fonti orali, quella cosa che raccontasti l'ultima volta del pezzo su Vento dell'Est. Ti ricordi che dicesti che stimolo forte per iniziare a fare ricerca con le fonti orali fu un pezzo di uno storico cinese, compare, ecco, questa cosa qui. Io era la prima volta che te la sentivo raccontare, merita secondo me di essere conosciuta. La seconda, come motivo di soddisfazione, è il fatto che dei compagni francesi, gli animatori delle edizioni Nuit Rouge, ci hanno chiesto di pubblicare un'edizione in Francia del libro sulla Volante Rossa, nell'ultima versione che è apparsa per i tipi dell'archivio Primo Moroni. E quel libro, tra l'altro, contiene nell'appendice quella riflessione sulle implicazioni metodologiche e politiche del fare ricerca con i militanti, che è particolarmente importante secondo me, e che per un pubblico francese può costituire una grossa novità, una grossa apertura di riflessione. L'ultima cosa è che nelle testimonianze quei rapporti stretti di collaborazione nella lotta, come ricordava prima Marcello, tra anarchici e giovani membri del primo PCD, mi ricordano altre due testimonianze, quantomeno. Quella di Fortichiari, quando ricorda che lui aveva fatto degli incontri con i migliolini, quindi con i rappresentanti delle leghe bianche, che volevano le armi per difendersi dagli attacchi fascisti, e le armi furono date, perché la base d'intesa era la lotta armata contro il fascismo. Quindi la questione del settarismo del primo PCD fa parte di rappresentazione sostanzialmente falsata delle dinamiche politiche che erano in atto allora. La seconda testimonianza è quella di Mariani, tra l'altro anche lui col suo gruppo e faceva da guardia del corpo a Malatesta e faceva da servizio d'ordine armato nelle manifestazioni milanesi. Furono loro che risolsero una serie di situazioni molto, molto delicate in piazza. Ma oltre a questo, quando ci fu l'occupazione delle fabbriche, lui fu incaricato dal comitato di sciopero di andare a prendere le armi a Schio insieme a un socialista rivoluzionario, lui che era anarchico. Vabbè, poi il camion si ribaltò, quindi le camion, però per dire di quella unità nella lotta che allora era un fatto decisivo per poter combattere, potersi difendere ed eventualmente contrattaccare. Ecco, e sul piano più generale la questione dell'organizzazione ha questi confini. Giustamente Franco ha ricordato che non è una questione astratta, gli anarchici non sono in quanto tali contrari all'organizzazione, la polemica era rispetto a una determinata forma di organizzazione, ma l'organizzazione di combattimento, quella è la questione che in frangenti di quel tipo si pone, e su questo piano chi ci sta non ha mai avuto problemi. Dopodiché si è d'accordo, non si è d'accordo su una serie di cose, però ci si trova su questa base. Ecco. Una cosa sola. Se tu hai registrato anche dei canti rispetto a questo periodo così di lotta, che hanno fatto un po' da colonna sonora all'occupazione delle fabbriche, eccetera. Proprio perché in questi momenti di lotta i canti sono proprio fondamentali. Ecco, volevo sapere se avevi pensato anche di registrare questi canti. No, li ho registrati, sono lì. Ma sulla questione di Vento dell'Est, che è stata una rivista molto importante per i militanti della mia generazione e che era fatta da Regis, dai Regis e da Giovanni Pirelli e da altri, devo dire che è vero che il primo stimolo alla ricerca orale mi venne da queste letture di storici cinesi che a loro volta avevano cominciato a fare ricerca orale, questo senza dubbio. Su questo rapporto tra i comunisti di Novara e gli anarchici si apre un mondo, perché per esempio parlavi delle Bruzie Malatesta. Io ricordo che uno dei comunisti, che poi socialisti, ma allora comunisti, che abbiamo registrato è Corrado Bonfantini, che poi fu uno dei socialisti che assieme alle Bruzie Malatesta fece la resistenza, insomma, oltre che creare le Brigate Matteotti. Poi non mi ricordo che cosa mi avevi chiesto, qualcosa d'altro. No, quello ha avuto molta importanza per me, insomma. Mi ha spinto di più ancora in quella direzione. Chi sono gli storici cinesi? Ricordare i nomi, li trovi su Vento dell'Est. Xi Xiang e... Sì, è uno dei primi. Potrebbe essere il primo o il secondo fascicolo di Vento dell'Est. Sui canti c'era la commissione con la prima guerra mondiale, potresti dire qualcosa? Eh? Sui canti. Beh, per i canti mi è capitato di parlare, per esempio, di quelli che venivano cantati attraverso durante l'occupazione delle fabbriche a Novara, e poi anche dei canti che venivano cantati in campagna, ma sono quelli che poi sono ben conosciuti, cioè la Marsigliese del lavoro, la Lega, insomma, non è che fossero dei canti particolari. Non ho trovato canti sul momento specifico, cantavano quelle canzoni, insomma. Vieni qua. È un desiderio. Noi dobbiamo tanto alla tua ricerca e a quello che ci hai insegnato anche oggi. Però voglio dire, per uno come me, insomma, non una parola su quello che qualcuno chiamava l'altra metà del cielo, i canti, lì è pieno di mondine. No, vorrei tanto che però tu ci facessi, ci richiamassi, no? Se effettivamente non hanno collaborato in niente a tutta questa storia che hai detto, oppure se c'è, è ora di dirla, perché noi abbiamo scritto tanto, per esempio sulle tabacchine, che sono sulle mondine abbiamo scritto tantissimo, e da noi viene moltissimo la rivolta contro quello che è il partito, come tu lo hai disegnato, perché proprio vi vediamo sempre tutta questa, riprodotto sempre quella istigazione alla sottomissione, alla repressione, contro cui noi ci siamo rivoltati. E nel 70 c'è proprio tutto un movimento anche di studiose. Io per esempio ho collaborato per quel po' che potevo fare alla storia delle tabacchine di Modena, che è interessantissimo. Lì morivano come le mosche, perché il lavoro veniva fatto in grembo, tutta una serie di pulizie, e le malattie che si prendevano dai reumi a quello che poi era tutto il sistema degli aborti spontanei, eccetera, era una cosa terribile, insomma, era anche un qualcosa che portava anche a vedere meglio la medicina per la donna, perché certi lavori li facevano solo le donne. Questo, per esempio, delle mondine, di ripulire tutto il tabacco e di pulirlo in questo modo che sembrerebbe assurdo, però lo si faceva in grembo, non altro, ecco, per dire. Cioè, quindi il desiderio è di vedere anche, perché non avete detto una parola su questo, che ci sono anche le operaie, poche, ma c'erano, per avere i dati, ecco, cominciare ad avere i dati anche su questo, a me sembra importante. Nome? Il tuo nome? Pinuccia. E cognome? Virgilio. No, in realtà siamo un po' maschilisti ancora oggi, però il libro non è maschilista, perché le più belle interviste che ci sono nel libro sono di donne, senza dubbio. Finisia Baldini, che è questa straordinaria e grande cantante popolare, che non è stata valorizzata, ma era straordinaria, e Angela Stangalini. Vi invito a leggerle, perché sono testimonianze molto importanti. Da noi tabacchine non ce n'erano, quindi. Ma aggiungo solo una cosa sulla questione. Ha ragione Cesare, e purtroppo non c'è la testimonianza, perché non è morta, è morta molto presto, ma c'è una figura. Io ho citato il marito, il compagno, che era Romolo II Funes, ma la sua compagna, che muore molto prima di Funes purtroppo, è Nina Seccatore, ed è una figura fondamentale del primo socialismo novarese, una figura ricorrente, maestra, educatrice, autrice di articoli molto forti sulla condizione femminile che gli valsero anche delle pesanti discriminazioni, ed è una figura fantastica da questo punto di vista. È capace di, secondo me, di scuotere le coscienze e di affascinare anche. Mi ha colpito la descrizione che ne fa un avvocato novarese repubblicano, Enrico Ottina. Enrico Ottina, questo avvocato repubblicano, racconta il ritratto di queste due figure, Romolo Funes e Nina Seccatore. Tenete presente che Romolo Funes era famosissimo, oggi è scomparso nella memoria, c'erano delle canzoni su Romolo Funes. Sì. Addirittura alcuni agrari chiamavano il cane Funes per il segno di disprezzo, però questo avvocato Ottina ricorda più Nina Seccatore di Romolo Funes, con parole che danno l'idea anche del fascino fortissimo che questa donna era in grado di esercitare. Vi leggo velocemente alcuni passi che veramente danno l'idea di che impatto avesse avuto questa figura. Parla di Funes e dice: era un uomo violento, impulsivo, anticonformista. Funes, in uno scontro tra socialisti, arriva a schiaffeggiare il povero Giulietti, sì, che poi diventerà sindaco di Novara. C'era un personaggio molto, molto viscerale, molto sanguigno. Però poi dice, Ottina nella sua memoria, aveva sposato una maestra d'ingegno, Nina Seccatore, una brava oratrice, figlia di una gerente di un'osteria di Lumellogno, che morì di tubercolosi nel 1906. E poi la descrive: gli articoli del Lavoratore, giornale socialista novarese, più interessanti, vivacemente polemici, erano di questa donna, appassionata, piena di brio e vivacità, sebbene di famiglia tarata. Questo non ho capito cosa significa. Sì, perché... Ma non solo, però a un certo punto dice che fa un confronto con la figura ben più famosa anche in termini storici di Funes. Dice: il Lavoratore subì dei processi per gli articoli della moglie di Funes. Fa Funes, che era un niente a confronto dell'ingegno, la passione, l'azione della moglie. Lui, Funes, aveva un oratorio di tipo comiziale e il movimento socialista di quell'epoca, se aveva protagonista il Funes, trovava in Nina Seccatore l'anima. Il consigliere era poi la famiglia Seccatore attraverso questa donna magnifica che aveva l'anima di Anita Garibaldi. E viene anche il dubbio che l'avvocato Tina avesse anche un po' perso la testa per questa cosa. Sì, sì. Purtroppo è morta nel 1906, non ha lasciato nessuna registrazione. E Funes era di Solesina. Avevamo... No, devo dire che se si dovesse fare una storia delle donne socialiste o delle donne militanti di Novara, sarebbe molto interessante, anche per me, perché nella mia famiglia ce ne state almeno due. Mia nonna, Olimpia Mancini, maestra elementare, che era non socialista, ma certamente molto, molto spinta a sinistra, e mia madre, che invece poi durante la Resistenza ebbe un ruolo molto importante, ma non viene neanche menzionata nei libri di storia. Fu legatissima ad Alan Dulles in Svizzera e si occupò in particolare dei lanci alle formazioni partigiane. Ma fare una storia delle donne socialiste novaresi sarebbe una cosa molto importante, a partire da Maria De O, ah, certo, che fu mamma di Ermanno Lazzarino, padre di Mara Lazzarino, che tu ben conosci, che fu praticamente quella che si occupò maggiormente dell'arrivo e dello smistamento dei bambini austriaci subito dopo la prima guerra mondiale da Vienna. Noi ne abbiamo avuti tantissimi a Novara e furono le donne che si occuparono soprattutto di questo. E poi vorrei ancora ricordare, si dovrebbe arrivare a Flavia Tosi, che è stata una vera eroina della Resistenza, ma nessuno la ricorda. Io ho una quarantina di nastri con lei, perché era, diciamo che l'amavo particolarmente. È quella che è riuscita a fare scappare da Villa Triste una serie di socialisti a Milano. È stata torturata, gliene hanno fatti di tutti i colori, ma non ha parlato. E poi è stata una staffetta partigiana straordinaria. Sarebbe bello fare un lavoro sulle donne socialiste a Novara. Però che lo facesse una donna. Teniamo presente. Un signore lo farebbe. Chi? Se non c'è altro, chiudi pure. Prego. Interessava sapere lo sviluppo in base ai momenti migratori, perché la zona era di grandi migrazioni, di lavoro temporaneo, Mantovano, Cremona, cioè un gruppo di mondine che si spostavano, ma non solo, quindi lo sviluppo del pensiero quindi anarco-socialista che grazie al movimento anche dei lavoratori veniva passato nelle varie regioni, ma anche verso paesi esteri, può essere la Francia, piuttosto che gli Stati Uniti, piuttosto che Sud America. Se ci sono quindi dei nomi che in base appunto a questo poi sono in grado di trasmettere sostanzialmente il pensiero anarco-socialista negli altri paesi, perché secondo me proprio il movimento, il lavoro temporaneo che avveniva lì era anche un elemento di diffusione sostanzialmente, o no, se c'è stato, ecco, grazie. Sicuramente, allora, è un argomento immenso e non possiamo. Mi limito a alcuni aspetti specifici del territorio. Lavoro stagionale, le mondine, indubbiamente. Mi sentite meglio adesso? Ecco, sicuramente un aspetto specifico del territorio è il lavoro stagionale delle mondine. Le mondine sono al centro oggi, giustissimo l'appunto che sto fatto, la figura femminile e del proletariato femminile, sottolineerei, mai dimenticare la condizione di classe, insomma. È al centro anche oggi di un processo di mistificazione incredibile. Cioè la mondina oggi è in genere ricordata come una figura leggiadra, allegra, e poi erano anche allegre, per carità, c'erano anche i momenti, però... ma la mondina è una figura molto interessante come lavoro stagionale. Le mondine in genere venivano nel periodo della monda, per l'appunto, da maggio a giugno, affluivano nelle campagne vercellesi, novarese, in parte del Pavese, della Lomellina, e provenivano da gran parte della pianura padana. Io ho avuto la fortuna di intervistare, aveva 103 anni quando l'ho intervistata, una mondina del Vercellese in casa di riposo, e lei veniva da Roncolo, Reggio Emilia, e si era poi stabilita nel Vercellese. Ne ho intervistate anche altre che provenivano dalla zona del territorio emiliano. Quindi era una migrazione che attraversava sostanzialmente la pianura padana. Le mondine erano molto importanti come presenza, senza idealizzarle, senza fare il mito. C'è il duplice mito della mondina: o questa figura di gioventù bella, felice, allegra, che si è trasportata anche in alcuni monumenti, tra parentesi, ma per contro c'è il mito della mondina come sempre in battaglia, sempre nella lotta, questa figura di militante a tutto tondo. In realtà era molto più complessa e sfumata. Però la mondina è una figura importante nella lotta e nelle rivendicazioni, per un motivo molto semplice anche, tra i tanti. La mondina è sradicata. La mondina non lavora a casa, la mondina straniera. La mondina è lontana da casa. La mondina quindi è anche per certi versi meno ricattabile della lavoratrice che invece è sul territorio. Si unisce alle altre lavoratrici in casermoni, quindi non torna a casa la sera, è concentrata, vede le condizioni uguali a quelle delle altre. Quindi era una, come dire, una forza d'urto nel movimento rivendicativo del Vercellese e Novarese fortissima, talmente vero che preoccupa la mondina. Io ho trovato un interessante opuscolo di inizio Novecento di parte cattolica che praticamente si preoccupa solo ed esclusivamente degli atteggiamenti lascivi e peccaminosi della mondina, perché la mondina, lontano da casa, dal controllo familiare, ha una vita dissoluta. Preoccupa i cattolici, ma la mondina preoccuperà molto anche i fascisti, che infatti faranno delle specifiche politiche per integrare la mondina, perché la mondina non è l'ideale del lavoratore rurale, casa, famiglia, legato, è una figura molto molto complessa e potenzialmente capace di creare grandi problemi alla tenuta sociale. Questo è un esempio di migrazione con una funzione politica. Molte altre ce ne possono essere. C'era un lavoro stagionale in alcune zone del Piemonte che andava verso la Francia, ad esempio. Si è detto per inciso, ad Egmort sono molti piemontesi del nord Italia che muoiono nell'eccidio di lavoratori delle saline del sud della Francia. Quindi c'è una migrazione politica verso la Svizzera, sicuramente. Potrei anche citare delle memorie familiari che i miei lontani parenti anziani dicevano che quando si andava in Francia si tornava rivoluzionari, perché quello era il paese dei rivoluzionari da quel punto di vista. Però concludo con un elemento, questo è interessante, questo, perché è contraddittorio, cioè l'emigrazione e anche il trasferimento di lavoratori stagionale veicola le idee sovversive, veicola le esperienze rivendicative, ma può anche svolgere una funzione opposta. Lombardi, l'organizzatore del proletariato bracciantile Lomellino, cita proprio questo esempio qua. Cioè l'emigrazione dei lavoratori autoctoni e l'arrivo di lavoratori, in questo caso dal Veneto, è stato anche un meccanismo per depoliticizzare la massa bracciantile. Cioè venivano costretti ad emigrare dei lavoratori che avevano fatto delle lotte, che avevano maturato delle concezioni, un'esperienza politica, e venivano sostituiti da lavoratori, da questo punto di vista, privi di questo retroterra. Ripeto, ho citato anche degli studi recenti che testimoniano questo utilizzo dell'emigrazione, talvolta anche forzata. Roberto ha citato Miglioli, è perfettamente vero. Queste esperienze anche di localizzate, Miglioli nella zona del Cremonese, ma ad esempio Massarenti nella zona di Molinella, per stroncare il fascismo poi queste presenze fece delle politiche di espulsione forzata dal territorio di molti lavoratori, sostituiti con lavoratori comunque, al di là del fatto che poi anche loro hanno iniziato un percorso di formazione di una coscienza, ma fino a quel momento privi di quel retroterra. Questo è un grosso utilizzo da parte padronale di questi flussi. Però ecco, diciamo, il quadro è complesso, però sicuramente anche la circolazione delle esperienze ha beneficiato di questi movimenti. Ecco. Di più. Sì, poi l'emigrazione fu anche verso gli Stati Uniti e l'Argentina. Io per esempio ero amicissimo di un ex anarchico diventato comunista della mia sezione, Peroni, che era molto combattivo, che era stato a New York, era stato uno dei primi a emigrare a New York, e mi raccontava appunto come si viveva negli Stati Uniti. E comunque anche lì studi da fare ce ne sarebbero ancora iose, insomma, anche se ne sono stati fatti. Per esempio, la canzone del feroce monarchico Bava è sicuramente venuta da Buenos Aires, portata a Buenos Aires, apparsa in un canzoniere anarchico, ritornata in Italia, e quando io l'ho registrata tre volte nel Novarese, non mi risulta che sia stata mai più registrata di prima, diciamo, di una prima volta con quelli che erano stati i primi a cantarla, da altre parti, insomma. Però insisto, arrivava da Buenos Aires, insomma, per dire. Se non c'è altro, grazie a tutti. Grazie.